Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stasera ospiti No Keys da Parma. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del disco The Regency, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato. Il titolo? Il titolo è Pretty Girl. La vostra esperienza nel studio di registrazione e quali le idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo disco, registrato tra l'altro in quel di Stoccolma. Beh, vabbè, Stoccolma è una città fantastica in cui noi ci siamo trovati veramente molto molto molto bene, soprattutto perché registrare in questa atmosfera glaciale, soprattutto la fase di mix, devo dire che ci ha accolto con favore, perché avevamo modo di comparare il lavoro in studio con quello che vedevamo fuori. Queste sonorità fredde, di ghiaccio, ci hanno veramente colpito e abbiamo cercato di portarle dentro il nostro disco, insomma. Sì, oltretutto The Regency è un disco che è nato davvero al buio, esperienze della nostra vita abbastanza complicate, e abbiamo registrato al buio perché quando registravamo a Stoccolma alle 2 del pomeriggio era già notte. E credo che Stefan Bowman, il nostro producer, abbia capito perfettamente questo clima e sia riuscito a sublimarlo al massimo. La prossima canzone per chi ci ascolta? La prossima canzone sarà Eyes of Riot. In studio ancora con i No Keys, recensioni varie, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro album? Per fortuna ci sono state tante recensioni, più di quante non ci aspettassimo. E una in particolare ci è piaciuta molto, è stata una recensione intervista che abbiamo fatto con Mauro Garofalo, che è un giovane giornalista critico musicale che lavora in questo momento con Il Sole 24 Ore Nova, ma ha curato tante cose, tra queste anche il libro Intervista con Morgan che è uscito l'anno scorso. È stata bella e particolare soprattutto perché noi siamo arrivati e lui si era preparato tantissimo sul disco. Così tanto si era preparato che poi ci ha messo in grave difficoltà con delle domande precisissime e ci ha davvero fatto tutto sommato scoprire delle cose del processo di lavorazione del disco nostro e delle canzoni che probabilmente in noi esistevano solo a livello inconscio fino a quel momento. È stato davvero interessantissimo perché capita poche volte, parlando con un'altra persona di se stessi, di vedere un lato che prima non si era considerato. Quindi questa senz'altro è stata la più interessante. Prossima track: Rock and Roll Pistolero. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i No Keys. Voi restate sempre su Radio RCS. I'm a rock.